momenti di luce e di ombre in generale, rispetto a tutti quanti i tre giorni durante i quali si è svolto. Quello che è capitato è stato che alcune organizzazioni della sinistra tunisina anticapitalista hanno voluto dare vita a una specie di contro social forum all'interno del social forum stesso, e sia oltre quello lì che era il social forum, che comunque è stato relegato nell'università di Tunisi, si è svolto tutto quanto all'interno dell'università di Tunisi e non ha avuto modo di entrare in contatto diretto con Tunisi stessa e con quelli che sono i quartieri della città. Diciamo che la partecipazione del social forum a quella che è la vita sociale di Tunisi è stata molto ridotta. I punti di contatto che si sono avuti principalmente con le associazioni che hanno partecipato al forum, con le associazioni tunisine, le giovani tunisini che hanno partecipato al forum. Per il resto è stato un forum abbastanza chiuso. Anche la novità tecnica con le quali è stato realizzato, c'era bisogno del pass per entrare all'interno del forum, e questo pass era a pagamento sia per le persone che venivano dal resto del mondo sia per i tunisini stessi. Scelta questa che ha prodotto un po' di polemiche all'interno delle associazioni della sinistra radicale tunisina. Ecco, diciamo che l'impressione che ho avuto è stata quella lì di un tentativo da parte delle organizzazioni interne al forum di fare un bagno all'interno di una situazione comunque ancora insurrezionale e rivoluzionaria, e nello stesso tempo c'è stata la volontà da parte del governo tunisino, di chi detiene attualmente il potere a Tunisi, di farsi una faccia abbastanza democratica agli occhi dell'Occidente. Se pensi a un episodio, per esempio, la sera prima dell'inizio del forum stesso c'è stato un concerto al Teatro Colosseo all'interno di Tunisi, dove alcuni gruppi dell'underground tunisino si sono espressi, hanno cantato canzoni comunque di contestazione e che narravano quelle che erano le giornate della rivoluzione. Ma nello stesso tempo, poco meno di 2 settimane fa, un rapper tunisino è stato arrestato per lo stesso motivo. Quindi, diciamo, il grado di libertà concesso dall'autorità tunisina durante le giornate del forum era molto più alto di quello che normalmente si ha nella Tunisia post Ben Ali. Pronto? Ci senti? Pronto? Ci senti? Sì, ti sento. Ascolta. Ecco, complessivamente stavo dicendo, le organizzazioni che hanno dato vita, diciamo, a questo forum hanno previsto vari momenti durante le tre giornate. C'è stato un momento in cui c'è stato un interno al forum per denunciare quelli che comunque erano i limiti del forum sociale stesso e la presenza di alcune organizzazioni che erano, diciamo, contigue a quello che sta intorno a Nada, intorno ai movimenti dell'Islam politico, che comunque erano interne al social forum stesso. Come esempio ti posso dare che quando sono arrivato all'università per vedere un pochettino come si stavano svolgendo i lavori del social forum, ho trovato un'associazione di donne tunisine che erano in sit-in all'interno dell'università e manifestavano il diritto di poter svolgere i salami con il niqab addosso, con il burqa addosso. Chiaramente questo strida un po' con quella lì che era la composizione principale del forum, che era fatta principalmente dall'organizzazione della sinistra istituzionale tunisina, in cui è stata anche forte la presenza e l'immaginario di Shoukry Ben Ali, riprodotto e ricordato molto spesso negli interventi all'interno del forum. Ascolta, complessivamente diciamo che ecco c'è questa doppia ambivalenza, cioè da un lato il forum è servito al governo tunisino per farsi una faccetta democratica, dall'altro ha permesso anche a organizzazioni antagoniste comunque della sinistra radicale del resto del mondo di entrare in contatto tra di loro ai margini dello svolgersi del forum stesso. Ascolta, sembra che l'impressione è quella che ci sia in qualche modo una volontà di rendere... Ci senti? Non sento bene. Ci senti adesso? Sì, adesso sì. Ok. Sembra che ci sia la volontà, almeno questa è l'impressione, di voler in qualche modo rendere più pacificata quella che era la Tunisia degli ultimi appunto 3 anni, anche se questa cosa insomma non riesce totalmente, probabilmente agli occhi delle forze democratiche internazionali questo insomma può bastare, un social forum, l'organizzazione di un social forum, ma insomma sappiamo che le rivolte, gli scioperi continuano spesso e volentieri in tutto il paese, e che comunque là si svolge insomma la vera in qualche modo non una cosa è svolta a tavolino, ma la vera appunto richiesta da parte della popolazione, richiesta di giustizia e di uguaglianza sociale, che insomma non può essere discussa se appunto ci immaginiamo, chi è stato in Tunisia lo capisce molto bene, ce l'ha ben presente, non può essere discussa a tavolino quando appunto spesso e volentieri mancano i mezzi per la comunicazione tra il sud e il nord del paese, per esempio, e c'è una disuguaglianza forte e drammatica, quindi sembra appunto che ci sia una grossa volontà di andare a pacificare o perlomeno andare a dimostrare che ci sia in qualche modo una svolta democratica delle forze insomma di sinistra o radicali. Quindi quello che ti chiedo è che cosa chiedevano invece quelli che hanno portato avanti il Contro Social Forum, e l'appello che abbiamo cercato di riassumere in 2 punti prima da questi microfoni, l'appello che si trova su internet, su WordPress. Guarda, su quello che dicevi tu, innanzitutto ti vorrei segnalare un episodio che è avvenuto il secondo giorno di svolgimento del Social Forum, in cui praticamente la sera si era sparsa la notizia tra le organizzazioni della sinistra radicale, poi notizia rivelatasi vera, che a GAPS c'era stata una nuova insurrezione da parte degli operai, dei disoccupati di quella città, contro la polizia, sempre per le stesse richieste che permanevano durante la dittatura di Ben Ali. Fondamentalmente lamentavano ancora il fatto di una difficoltà di accesso alle liste, diciamo una forma di lista di collocamento che è lì presente, che durante la dittatura di Ben Ali veniva gestita dall'RCD e che adesso fondamentalmente viene gestita da Ennahda. Una rivolta che è stata repressa dalla polizia tunisina sparando addosso ai manifestanti con dei fucili da caccia caricati a pallini, e che ha prodotto il ferimento di 20 persone che stavano manifestando lì a Gabsa. Quindi la situazione nel sud del paese è tutt'altro che stabile, è tutt'altro che pacificata. I problemi rimangono e vengono fuori anche durante questi momenti. Il Social Forum nel complesso a questa notizia ha reagito in maniera strana, fondamentalmente non ha reagito o non ha preso posizione rispetto a quello lì che avveniva proprio mentre il Social Forum si stava svolgendo, ed è passato tutto quanto in questo modo. Le organizzazioni della sinistra tunisina fondamentalmente lamentano anche questo, cioè lamentano il fatto che è stato un social forum creato ad arte, che le burocrazie, partitiche e sindacali hanno gestito il forum, e che non c'è stata una reale partecipazione sociale all'interno del forum stesso da parte della popolazione tunisina. Cosa che tra l'altro, girando un pochettino per Tunisi, un pochettino all'interno dell'università, è un sentimento che non è relegato semplicemente ai militanti di queste organizzazioni, ma è un sentimento anche abbastanza diffuso all'interno della popolazione tunisina stessa. Mi è capitato di parlare con un ragazzo che andava lì all'università, che era capitato all'università perché era andato lì a studiare, un ragazzo che durante il colloquio è uscito fuori, che era tra l'altro un credente islamico, non islamista per carità, però un credente islamico, e diceva che era tutto quanto un cinema, utilizzando questa parola, dicendo: guarda, qui è tutto quanto un cinema, hanno rifatto i muri dell'università, hanno ridipinto i muri una settimana fa per far vedere ai giornalisti che venivano, alle persone dall'Occidente che venivano, che qui le cose a Tunisi si svolgono normalmente, senza nessun problema, e che c'è stato un cambiamento reale dalla società tunisina, quando in realtà sempre questo ragazzo tirava fuori, in realtà è cambiato poco e niente, ci sono ancora i problemi di disoccupazione che c'erano prima, c'è sicuramente più libertà di quanto ce n'era sotto il regime di Ben Ali, però adesso dobbiamo affrontare il problema di come i partiti islamici si stanno interfacciando con quello che è il post-rivoluzione e quanto controllo stanno riuscendo ad avere intorno a quello lì che è stata l'insorgenza rivoluzionaria tunisina. Più o meno questo, se vi è capitato di leggere il report che aveva fatto un giornalista di Repubblica, in cui raccontava un episodio abbastanza singolare, in cui durante l'ultima giornata del Social Forum lui era a Tunisi, si è avvicinato a questi poliziotti che sono i poliziotti antisommossa tunisini che giravano in passamontagna durante il pieno giorno nel pieno centro di Tunisi sull'Avenue Bourguiba per controllare quella che era la situazione, e questo poliziotto gli ha offerto delle caramelle. Ecco, questo episodio, se non fosse capitato a un giornalista occidentale di Repubblica con un pass del Social Forum al collo, ma ad avvicinarsi al poliziotto fosse stato un qualsiasi altro esponente, diciamo, che visivamente sembrava meno occidentale, sicuramente il poliziotto in passamontagna non gli avrebbe offerto le caramelle, ma avrebbe mantenuto lo stesso trattamento che aveva durante il regime di Ben Ali, anche perché i vertici della polizia non sono stati cambiati o rimossi, e quello che si è visto durante il Social Forum è davvero molto simile a un cinema. Ecco, questo qui era quello che raccontavano principalmente le organizzazioni della sinistra radicale lì di Tunisi. Ci sono state appunto delle manifestazioni durante quei giorni, ci sono del contro social forum, delle iniziative, dei sit-in di comunicazione. Io ho visto solo appunto delle foto che sono girate su Facebook di una manifestazione promossa appunto dai compagni e le compagne di Tunisi. Sì, fondamentalmente ci sono stati due momenti abbastanza importanti, uno all'interno del social forum promosso dai compagni e dalle compagne di Tunisi, al quale si sono uniti anche dei compagni e delle compagne egiziane, algerine e altre italiani che erano lì presenti al forum sociale di Tunisi, momento di denuncia nel quale è stato fatto un corteo proprio all'interno della zona in cui si svolgeva il social forum per denunciare le cose che dicevamo prima, cioè il fatto che il forum è stato creato principalmente ad uso e consumo dall'Occidente, ecco. L'altro momento più importante durante il social forum è stato fatto fuori dal forum stesso, sull'Avenue Bourguiba, in cui praticamente sempre le stesse organizzazioni hanno dato vita a un'assemblea spontanea e popolare all'interno del centro di Tunisi. Assemblea che a mio avviso è andata anche abbastanza bene, perché comunque quello che si nota è un'estrema voglia di partecipare e di comunicare, cioè basta che un po' di persone si radunino all'interno dell'Avenue Bourguiba, intorno al centro di Tunisi, basta che poche persone si radunino lì, che il grosso arriva intorno e inizia a parlare e a discutere su quelli che sono i limiti della Tunisia post-rivoluzionaria. Ecco, la voglia di partecipazione popolare in questo momento è ancora alta e molto forte. Chiaramente ci sono tutte quante le tecniche repressive, perché dopo un'oretta che si svolgeva questa assemblea, che aveva assunto numeri abbastanza importanti, alla quale si è unita anche un corteo spontaneo di lavoratori tunisini che erano in sciopero per le condizioni di lavoro, le camionette della polizia hanno iniziato a girare intorno all'Avenue Bourguiba per mettere pressione psicologica a delle persone che si stavano radunando e discutendo, quindi c'è anche questa ambivalenza. Interessante questa assemblea perché è stata creata fuori dal forum e perché fondamentalmente è riuscita a tirare fuori quelle lì che erano le istanze reali della società tunisina, anche fuori da quelle lì che erano comunque discussioni molto imbrigliate e molto macchinose che c'erano all'interno del forum stesso, perché per chi l'ha vissuto, per gli appuntamenti più importanti, più sentiti, sembrava di assistere più che a un'assemblea normale, organizzata, come quelle che spesso vediamo in Italia e in altre parti del mondo, sembrava di assistere a un seminario in cui i saggi parlavano di quella che era la situazione tunisina e in cui lo scambio e la partecipazione era veramente ridotto al minimo, ecco. È interessante anche il lavoro che hanno fatto le associazioni tunisine su quello che è il problema dei rifugiati politici che stanno a Sciuscia. Per quella che è la mia impressione, fondamentalmente se ne sono occupati solo loro e se ne sono fatti carico loro di farli entrare all'interno del forum stesso. A Sciuscia, non so se si conosce la situazione, comunque c'è un campo di rifugiati che sono scappati dall'ultima guerra che è stata fatta in Libia, principalmente di provenienza subsahariana. Sono 1200 persone detenute di fatto in uno stato amministrativo che non si capisce bene quale sia, perché sono sul territorio tunisino. La Tunisia rifiuta il permesso di soggiorno a queste persone, non si capisce se le vuole rimpatriare. Queste persone stanno rifiutando il tentativo di rimpatrio da parte delle autorità tunisine e rimangono bloccate all'interno di questo campo qui. Ecco, la possibilità di accesso alla delegazione di Sciuscia all'interno del forum è stata garantita anche grazie al lavoro dell'associazione della sinistra radicale tunisina. Va bene, grazie. Penso che sei stato abbastanza esaustivo, magari non lo so, se ci vengono in mente altre cose, se succedono altre cose in questi giorni, magari sentiremo di nuovo il tuo parere, dato che sei stato lì ultimamente, e andremo anche a sentire nei prossimi giorni comunque i compagni e le compagne tunisine. Grazie, ti ringraziamo per il tuo contributo. Grazie, grazie a voi, buongiorno a tutti. Ciao. Sad. Me sing again, no man no want to live a lonely life of that I'm sure. But me nah go second for less when I know I deserve more. Every day from me vessel when me love you come and pour it out. You pour it out. And when me ready for so my ears, you lock me out and change your route and then you run your mouth. But you